Il terzo anello ad alta voce, I mandarini di Simone de Beauvoir. Henri passò i giorni seguenti tappato nel suo ufficio. Non tornava da Paul che per dormire ed era molto se trovava il tempo di buttar giù il suo reportage. Dopo quella vacanza troppo lunga, l'attività frenetica gli piaceva. Riconobbe senza entusiasmo la voce di Scrassine al telefono. «Di un po', brutto traditore, sono 4 giorni che sei tornato e non ti sei ancora visto. Vieni subito a Lisbonne, in Rue Balzac. Desolato da lavorare. Non desolarti e vieni, ti s'aspetta per bere lo champagne dell'amicizia». «Chi m'aspetta?» disse Henri più allegro. «Io tra gli altri», disse la voce di Dubreuil. «E Anne e Julien, ho 50 cose da dirvi». «Va bene, vengo». Henri riappese e sorrise. Aveva proprio voglia di rivedere i Dubreuil. Staccò di nuovo il ricevitore e chiamò Paul. «Sono io. I Dubreuil e Scriassin ci aspettano a Lisba. Passo a prenderti con la macchina». Henri non amava né lo champagne, né la musica zigana, né quel falso lusso, ma gli pareva lo stesso una festa trovarsi seduto alle 2 del mattino in un locale pubblico. «Siamo di nuovo in casa nostra», si disse. «Anne, Paul, Julien, Scriassin, i miei amici». La parola crepitò nel suo cuore con la gaiezza d'un mortaretto di Natale. Julien trascinò Paul sulla pista. Dubreuil si rivolse a Henri. «Sabato c'è riunione del comitato, conto su di voi». «Lasciatemi rifiatare», disse Henri. «Non dimenticate che ho un giornale sulle braccia». «Appunto, è soprattutto al vostro giornale che pensavo. Non può più restare neutrale». «Ma non è affatto neutrale», disse Henri sorpreso. «Ogni volta che ce n'è bisogno, l'Espoir prende partito». «Ma no che non lo prende, non più degli altri giornali, del resto. Dal Figaro all'Humanité siete tutti mistificatori. Dite di sì a De Gaulle, dite di sì a Yalta, di sì a tutto. Fate finta di credere che ci sia ancora una resistenza e che il paese sia in marcia verso il socialismo. Invece si sta segnando il passo. Si è persino cominciato a far marcia indietro, e non uno di voi che osi votare il sacco». «Credevo che foste d'accordo con l'Espoir», disse Henri. «D'accordo su che?» disse Dubreuil. «L'Espoir non ha una linea. Ogni giorno deplorate che non si siano fatte le nazionalizzazioni. E poi, quel che sarebbe interessante sarebbe di dire chi le ostacola e perché». «Non voglio mettermi su un terreno classista», disse Henri. «Le riforme si faranno quando l'opinione le esigerà. E io cerco di montare l'opinione. Ma per questo non bisogna che indisponga la metà dei lettori». «Non vi immaginate che la lotta di classe sia superata?» chiese Dubreuil sospettoso. «No». «Allora non venite a parlarmi dell'opinione. C'è da una parte il proletariato che vuole le riforme e dall'altra la borghesia che non le vuole. La piccola borghesia tentenna perché non sa più bene da che parte stia il suo interesse. Ma non sperate di influenzarla, sarà la situazione a decidere». «Dove volete arrivare?» chiese Henri. «Decidetevi una buona volta e definite la vostra posizione rispetto al Partito Comunista. Insomma, è il programma dell'SRL che mi proponete?» «Sarebbe normale», disse Dubreuil. «La debolezza dell'Espoir viene dal fatto che non rappresenta niente. D'altra parte, senza il giornale, l'SRL non ha praticamente alcuna probabilità di successo. E poiché i nostri scopi sono gli stessi...» «Beh, i nostri scopi, ma non i nostri metodi», disse Henri, e pensò con rincrescimento. «Ecco perché Dubreuil era così impaziente di vedermi». Tutta la sua allegrezza cadde. «Possibile che non ci sia modo di passare una serata tra amici senza parlare di politica?» si chiese. Non aveva niente di così urgente quella conversazione. Dubreuil avrebbe potuto rimandarla di un giorno o due. Era diventato maniaco, peggio di Scriassin. «Appunto, vi converrebbe cambiarli i vostri metodi», disse Dubreuil. Henri scosse la testa. «Vi mostrerò le lettere che ricevo, lettere di intellettuali soprattutto, di maestri, di studenti. Quel che ammirano nell'Espoir è la sua buona fede. Se pubblico un programma, perdo la loro fiducia». «Certo, gli intellettuali sono contentissimi quando li si incoraggia a non esserne carne né pesce. La loro fiducia. E perché farne? Datemi 2 o 3 anni e ve li conduco per mano all'SRL». «Lo credete davvero? Siete un bel idealista». «È possibile», disse Henri un po' irritato. «Ho le mie idee su quel che deve essere un giornale». Dubreuil fece un gesto evasivo. «Ne riparleremo, ma credetemi, di qui a 6 mesi l'Espoir avrà adottato la nostra linea. O allora non sarà più che un gazzettino». «Sia, ne riparleremo tra 6 mesi», disse Henri. Thank you. Quando fu coricato accanto a Paul, Henri non poté addormentarsi. Era colpa dello champagne, della vodka, di Dubreuil. No, non gli cederebbe l'espoir, questo era evidente. Tanto evidente che non aveva bisogno di giustificazioni. Eppure, qualche buona ragione gli sarebbe ugualmente piaciuto di trovarla. Un idealista. Era vero? E prima di tutto, idealista. Che cosa vuol dire? Evidentemente, in una certa misura, credeva nella libertà della gente, nella sua buona volontà, nel potere delle idee. Non vi immaginate che la lotta di classe sia superata? No, non se l'immaginava. Ma cosa avrebbe dovuto concluderne? Dio mio, si disse angustiato, come si è ignoranti. Il fatto era che per la lotta politica lui era particolarmente mal preparato. Non ho che da mettermi all'opera, si disse. Ma se avesse voluto approfondire le cose, ne avrebbe avuto per anni. Economia, storia, filosofia, non avrebbe finito più. Anche solo per avere un'idea un po' chiara del marxismo, che lavoro! Di scrivere non se ne sarebbe parlato più. E lui voleva scrivere. Allora? Comunque non avrebbe abbandonato l'espoir solo perché non conosceva per filo e per segno la dottrina del materialismo storico. Chiuse gli occhi. C'era qualcosa di ingiusto in quella faccenda. Si sentiva, come tutti, obbligato a occuparsi di politica. Ma allora la cosa non avrebbe dovuto esigere una preparazione speciale, se era un campo riservato ai tecnici, che non gli si chiedesse di mischiarsene. «Quel che mi bisogna è il tempo», pensò svegliandosi. «Il solo problema è di trovare del tempo». La porta dello studio s'era aperta e richiusa. Paul era già uscita e ora, di ritorno, camminava per la stanza a piccoli passi prudenti. Buttò da parte le coperte. «Se vivessi solo risparmierei delle ore». Niente più conversazioni oziose né pasti organizzati. Sfoglierebbe i quotidiani prendendo il caffè al piccolo bar dell'angolo. Lavorerebbe fino al momento di andare al giornale. Là, un sandwich gli servirebbe da colazione. A lavoro finito, cenerebbe rapidamente e leggerebbe la notte fino a tardi. In questo modo avrebbe potuto mandare avanti nello stesso tempo l'espoir, il suo romanzo e le sue letture. «Parlerò a Paul questa mattina stessa», decise. «Hai dormito bene?» disse Paul gaiamente. «Benissimo». Stava disponendo dei fiori sulla tavola. «Cosa farai oggi?» le chiese con voce affettuosa. «Ma», disse Paul, «niente di speciale». «Ma che cosa?» Ella rifletté. «Ebbene, telefonerò alla sarta per guardare con lei quelle belle stoffe che m'hai portato». «E poi?» «Oh, ho sempre una quantità di cose da fare», disse Gaia. «Cioè non fai niente», disse Henri. La guardò con severità. «Ho molto pensato a te in questo mese. Trovo delittuoso che tu passi la giornata intera a vegetare tra queste quattro mura». «Tu lo chiami vegetare», disse Paul. Gli sorrise con dolcezza e, come un tempo, c'era nel suo sorriso tutta la saggezza del mondo. «Quando si ama, non si vegeta». «Ma amare non è un'occupazione». Ella l'interruppe. «Prego, per me è un'occupazione». «Ho ripensato a quel che t'ho detto la sera di Natale», riprese Henri, «e sono sicuro d'aver ragione. Dovresti rimetterti a cantare. La tua voce è sempre così bella. E anche tu». «Ma no», rispose Paul con impazienza. Alzò le spalle. «Lo so, ci saranno quattro intellettuali che per farti piacere decreteranno per qualche mese che ho del talento. E poi buonasera. Avrei potuto essere Damiao o Edith Piaf. Ho lasciato passare il momento. Tanto peggio per me, non parliamone più». Probabilmente non sarebbe diventata una grande vedette, ma sarebbe bastato che avesse un po' di successo e le sue pretese sarebbero calate. In ogni modo, se si fosse interessata attivamente a qualche cosa, la sua vita sarebbe diventata meno insipida. «E anch'io ci troverei il mio tornaconto», pensò Henri. Capiva bene che si trattava della sua propria vita, prima ancora che di quella di Paul. Si alzò, inutile discutere. Cercherebbe piuttosto di metterla davanti al fatto compiuto. Le porterebbe delle canzoni, prenderebbe degli appuntamenti per lei. «Va bene, non parliamone più. Ma hai torto». Thank you. Henri era impaziente di rimettersi a scrivere e si rallegrava all'idea che questo nuovo romanzo non sarebbe stato edificante per niente. Non aveva ancora alcuna idea precisa di quel che avrebbe fatto. La sua sola consegna era di divertirsi gratuitamente, a essere sincero. Sparse davanti a sé le sue pagine d'appunti, cominciò con l'abbandonarsi al piacere di ritrovare, modellata in frasi, una quantità di impressioni e di ricordi. Ma a poco l'invase un'inquietudine. Cosa ne avrebbe fatto di tutto quello? Erano cose senza capo né coda, buttate giù così. Avevano, è vero, qualcosa di comune, un certo clima, il clima di prima della guerra. Ma era proprio questo che improvvisamente le infastidiva. Aveva pensato vagamente cercare di rendere il gusto della mia vita, come se si fosse trattato d'un profumo etichettato, marca depositata, sempre lo stesso attraverso tutti questi anni. Ma quel che diceva sui viaggi, per esempio, riguardava esclusivamente il giovanotto di 25 anni che era stato nel 1935. Niente a che fare con quello che aveva provato in Portogallo. La sua storia con Paul era anch'essa legata a una data. Né Lambert, né Vincent, né alcun altro dei giovani che conosceva avrebbero avuto oggi delle reazioni di quel genere. C'era una soluzione. Cercare deliberatamente di situare il suo romanzo intorno al 1935. Ma non aveva nessuna voglia di fabbricare un romanzo d'epoca che evocasse un mondo superato. Respinse il fascio d'appunti. Riunire materiale a caso. Cattivo metodo. Bisognava fare come d'abitudine. Partire da una forma di insieme. Da un'intenzione precisa. Ma quale? Si chiese. Quale verità vorrei esprimere? La mia verità. Che significa precisamente? Guardava intontito la pagina bianca. Tuffarsi nel vuoto, a mani vuote, non è facile. Forse, pensò, non ho più niente da dire. Comunque, questa mattina era incapace di concentrarsi su alcun lavoro. La conversazione di ieri con Dubreuil l'aveva troppo scosso. Decise di passare al Bar Rouge, era l'ora dell'aperitivo. Entrando vide Nadine seduta tra la Chaume e Vincent. «Non ti si vede spesso», gli disse la ragazza arrabbiata. «Lavoro». Si sedette anche lui e ordinò un vermouth gin. «Parlavamo giusto di te», disse allegramente la Chaume, «della tua intervista su Lendemain. È bene che tu abbia votato il sacco, voglio dire a proposito della politica alleata in Spagna». «E perché non lo votate voi il sacco?» disse Vincent. «Noi non possiamo, non in questo momento, ma è bene che qualcuno lo faccia». «Straordinario», disse Vincent. «Tu non vuoi mai capire», disse la Chaume. «Capisco benissimo». «No, non capisci». Henri beve il suo vermouth gin ascoltando distrattamente. La Chaume non perdeva mai un'occasione di spiegare il presente, il passato e l'avvenire riveduti e corretti dal partito. Ma non si poteva volergliene. A 20 anni nel Maquis aveva scoperto tutti insieme l'avventura, il cameratismo, il comunismo. Si capiva che fosse diventato un po' fanatico. «Gli voglio bene perché l'ho aiutato», pensò Henri con ironia. L'aveva tenuto nascosto per 3 mesi nello studio di Paul, gli aveva procurato dei documenti falsi e lasciandolo gli aveva regalato il suo unico cappotto. «Di un po'», disse bruscamente. «Ti ringrazio del tuo articolo, è davvero gentile». «Ho detto quello che pensavo», disse la Chaume. «Del resto sono tutti d'accordo, è un bellissimo libro». Henri sorrise. «Ma ti sei sbagliato in una cosa, mai quel mio personaggio diventerà comunista». «E cosa vuoi che diventi d'altro?» Henri si mise a ridere. «Ebbene, quel che sono diventato io». La Chaume rise anche lui. «Appunto!» guardò Henri negli occhi. «Tra meno di 6 mesi l'SRL non esisterà più e tu avrai capito che l'individualismo non serve. Ti iscriverai al Partito Comunista». Vincent si chinò in avanti e guardò la Chaume con sfida. «Se davvero hai modo, spiegaglielo tu ai compagni che è una cosa schifosa accogliere a braccia aperte tutti gli sporcaccioni che si dicono pentiti. C'è una quantità di porci che state sdoganando alla chetichella». «Non confondere le cose. Quando si decide di passare la spugna sul passato di un tizio, vuol dire che il tizio è recuperabile». «Se la metti così, come essere sicuri che tutta la gente che si è fatta fuori non fosse recuperabile?» «In quel momento non c'era altra via, bisognava farli fuori». «In quel momento? Ma io li ho ammazzati per tutta la vita», disse Vincent. Poi sorrise con malizia. «Però, senti, ti voglio dire una buona cosa. Erano tutti dei farabutti, senza eccezione. Quel che resta da fare adesso è di liquidare tutti quelli che abbiamo trascurato». Henri guardò Vincent. «Ho sentito parlare di tipi che si divertono a fare i giustizieri. Se si tratta di rese dei conti personali lo capisco, ma immaginarsi di salvare la Francia ammazzando un collaborazionista qui e uno lì è da malati o da imbecilli. Lo so, la cosa bella e sana sarebbe di iscriversi al Partito Comunista o all'SRL, disse Vincent. Scosse la testa. Me non mi avrete. Faremo senza, disse Henri in tono amichevole, e si alzò, e Nadine con lui. Ti accompagno. Henri liquidò rapidamente la corrispondenza e guardò l'orologio. Preston sarebbe venuto tra mezz'ora. Intanto aveva tutto il tempo di spiegarsi con Césenac. «Volete chiamarmi Césenac?» chiese alla segretaria. Tornò a sedersi alla scrivania. Aver fiducia nella gente era una bellissima cosa, ma c'era una quantità di brave persone che avrebbero preso volentieri il posto di Césenac e che lo meritavano più di lui. «Peccato», si disse. Césenac, per un anno, era stato uno dei loro migliori agenti di collegamento. Ora, pallido, macilento, con gli occhi vitrei, si trascinava a rimorchio di Vincent e non era più capace di scrivere un solo periodo che stesse in piedi. «Ah, eccoti, mettiti a sedere!» Césenac si sedette senza una parola e Henri s'accorse improvvisamente che non lo conosceva affatto, anche se aveva lavorato un anno con lui. Gli altri era più o meno al corrente della loro vita, dei loro gusti, delle loro idee. Césenac aveva sempre taciuto. «Vorrei sapere se vuoi deciderti, sì o no, a passarci altro che della spazzatura», disse con voce più secca di quel che avrebbe voluto. Césenac alzò le spalle, con un'aria d'impotenza. «Cos'è che non va? Stai male? Sei nei guai?» Césenac rotolava un fazzoletto tra le mani e guardava fisso il pavimento. Era davvero difficile trovare un contatto con lui. «Cos'è che non va?» ripeté Henri. Io vorrei proprio lasciarti provare ancora. No, disse Sesenac, il giornalismo non ci sono tagliato. È inutile che m'ostini, non è un lavoro che mi piaccia. Avresti potuto dirlo prima, disse Henri un po' irritato. Dopo un altro silenzio chiese: che cosa farai? Non preoccuparti, me la caverò. Posso fare qualche cosa per te? Potresti prestarmi 1000 franchi? Eccone 2000, ma non è una soluzione. Sesenac si cacciò in tasca il fazzoletto e per la prima volta sorrise. È una soluzione provvisoria, sono le più sicure, spinse la porta. Grazie. Buona fortuna, disse Henri. Si sentiva sconcertato. Si sarebbe detto che Sesenac non avesse aspettato che l'occasione di andarsene. Avrò notizie da Vincent, si disse per rassicurarsi, ma gli dispiaceva di non aver saputo farlo parlare. La segretaria socchiuse la porta. Il signor Preston. Fate entrare. In borghese, Preston, un agente dello State Department, non aveva affatto l'aria di un americano. Solo la perfezione del suo francese lo tradiva un po'. Entrò quasi subito in argomento. Il vostro amico Luc avrà detto che ci siamo incontrati diverse volte durante la vostra assenza. Abbiamo deplorato insieme le condizioni della stampa francese, che sono davvero pietose. Sarebbe un grande piacere per me aiutare il vostro giornale fornendovi un supplemento di carta. Ah, ci servirebbe proprio, disse Henri. L'Espoir, secondo noi, è esattamente la guida di cui il paese ha bisogno, disse Preston. È per questo che i miei amici e io vogliamo aiutarvi. Ammiriamo il vostro spirito di indipendenza, il vostro coraggio, la vostra lucidità. Tacque, ma la sua voce restava in sospeso. E così? Disse Henri. Ho seguito con molto interesse il principio del vostro reportage sul Portogallo, ma sono stato un po' sorpreso questa mattina leggendo in un'intervista che avreste l'intenzione, a proposito del regime di Salazar, di attaccare la politica americana nel Mediterraneo. Trovo effettivamente che è una politica deplorevole, disse Henri un po' secco. È un pezzo che Franco e Salazar avrebbero dovuto essere liquidati. Le cose non sono così semplici, lo sapete bene. Aprendo questa campagna fareste il gioco di quelli che ci accusano di imperialismo. Non ho l'intenzione di aprire una campagna, disse Henri. Voglio semplicemente segnalare certi fatti. Ma questi fatti saranno utilizzati contro di noi, disse Preston. Henri alzò le spalle. Questo non mi riguarda. Sono un giornalista e dico la verità. È il mio mestiere. E se siete sicuro che una certa verità porterà a conseguenze nefaste, la dite ugualmente? Henri esitò. Se fossi sicuro che una certa verità portasse a conseguenze spiacevoli, mi dimetterei, lascerei il giornalismo. Non vedo altra soluzione. Ci fu un silenzio, e infine Preston disse: voi capite evidentemente che se l'Espoir prende partito contro l'America io non posso più conservargli la mia simpatia. Lo capisco, disse Henri seccamente, e voi capirete da parte vostra che io non posso sottoporre l'Espoir alla vostra censura. L'Espoir non è da vendere per qualche chilo di carta. Ah, se la prendete su questo tono, disse Preston, s'alzò, credete pure che mi rincresce. A me non rincresce per niente, disse Henri. Thank you.